3. La guerra del popolo. Nessuno può dire quando o dove sia iniziata la prima guerra della rivoluzione. 10 anni prima della battaglia di Lexington, gli americani uscirono dalle loro capanne nella valle del Conotoga e presero d'assalto Fort Loudoun. Uno dopo l'altro, gli americani percorsero i sentieri della Green Mountains, scesero al lago e presero il forte del re a Ticonderoga. Agirono come individui, ognuno con la propria conoscenza della realtà. Gli uomini rispettati e rispettabili erano contro di lui, gli insegnanti, i pensatori, gli scrittori di libri erano contro di lui. Gli uomini importanti, ricchi e tutti gli uomini di alto rango stavano invece con il re. Come quando ognuno di questi uomini abbia scelto tra il conformismo, la sottomissione che sembrava una sicurezza e la lotta che sembrava senza speranza, nessuno può saperlo. Nel 1838 un piccolo negoziante in pensione di nome Ebenezer Fox, che aveva combattuto la guerra come marinaio ordinario sotto la bandiera del Pine Tree, scrisse il suo semplice racconto per i nipoti. Disse: «Sono nato nella parrocchia orientale di Roxbury, nello stato del Massachusetts, il 20 gennaio 1763. Non si verificò nulla al di fuori dell'ordinario corso degli eventi umani di cui io abbia memoria finché non arrivai all'età di 7 anni. Mio padre, che era un sarto, essendo povero e avendo una famiglia numerosa, pensò che la mia forza fisica a quel punto della mia vita fosse adeguata a che io mi mantenessi da solo e mi affidò alle cure di un contadino di nome Pelham. Nel XVIII secolo questo era normale, i ragazzi di 7 anni erano generalmente tenuti a mantenersi da soli con il proprio lavoro in casa o come domestici. 80 anni fa, l'età era salita a 9 anni. Con lui rimasi 5 anni svolgendo in casa e nella fattoria i servizi adatti alla mia età e alle mie forze. Immaginavo però di aver sofferto molte privazioni e di aver sopportato molte difficoltà, il che era indubbiamente vero. Se la mia situazione fosse stata paragonata a quella di molti ragazzi della mia età a quel tempo o in questi tempi più raffinati. Spesso mi lamentavo dolorosamente con mio padre, ma lui non vi prestava attenzione, supponendo che queste lamentele nascessero solo da uno spirito di malcontento che presto si sarebbe placato. Le espressioni di esasperazione contro il governo della Gran Bretagna, che per lungo tempo erano state assecondate ed espresse abbastanza bene, si sentivano ora continuamente nella bocca di tutte le classi, da padre e figlio, da madre e figlia, da padrone e schiavo. Quasi tutti i discorsi che mi giungevano alle orecchie riguardavano la tirannia del governo. È perfettamente naturale che lo spirito che prevaleva si diffondesse tra i membri più giovani della comunità. Io e altri ragazzi che si trovavano in una situazione simile alla mia pensavamo di avere torti da riparare, diritti da mantenere, che fosse nostro dovere e privilegio far valere i nostri diritti. Applicavamo direttamente le dottrine che ascoltavamo quotidianamente alle nostre circostanze. Pensavo che mi stavo facendo una grande giustizia, una grande ingiustizia, rimanendo in schiavitù mentre avrei dovuto essere libero, e che fosse giunto il momento di liberarmi e di istituire un mio proprio governo, in altre parole, di fare ciò che era giusto ai miei occhi. Così Ebenezer scappò dal suo padrone e trovò lavoro a 5 dollari al mese su una nave diretta a Santo Domingo che, di ritorno con un carico illegale di melassa e caffè, fu attaccata da due navi da guerra e da un tender al largo di Stonington, nel Connecticut. Fu portata a riva e catturata. L'equipaggio, compreso il dodicenne Ebenezer, raggiunse a nuoto la riva sotto il fuoco delle navi britanniche. Quasi annegato si spogliò in acqua, tornando così dal suo primo viaggio senza un soldo e completamente nudo. Senza ferite, ma quasi morto per la fatica e la paura, non poco aumentata dal suono dei proiettili che fischiavano intorno alla mia testa mentre ero in acqua. La mia apparizione tra l'equipaggio in un campo di grano, in uno stato di completa nudità, suscitò non poca ilarità. «Aloha, ragazzo mio!» esclamò uno di loro. Sei una bella figura, non vieni dal giardino dell'Eden, posso giurarlo perché non hai nemmeno un grembiule di foglie di fico con cui coprirti. Non sei nato per essere annegato, vedo. Vivrai per essere impiccato. Ma dopo qualche battuta a mie spese, il marinaio prese una delle due camicie che aveva afferrato prima di lasciare la nave e me la diede. Naturalmente Cercò diligentemente un altro lavoro ed ebbe la fortuna di ottenerlo su una nave per la melassa e il caffè nelle Indie occidentali. Ebenezer si offrì volontario per combattere per l'indipendenza. Combatté fino alla fine della guerra. I cannoni che sparavano gli distrussero completamente l'udito da un orecchio. Fu ferito, catturato, affamato sulla nave prigione a Long Island Sound. Fuggì, combatté di nuovo. I marinai combattenti americani furono lasciati a terra in Francia quando la guerra finì. Ebenezer Fox riuscì a tornare a casa e a trovare un lavoro a terra. La sua paga per quegli anni di combattimenti era la parte di marinaio comune del premio per una nave britannica catturata. In una nota a piedi pagina, lo scrittore afferma che questo denaro non aveva alcun valore in quanto era stato pagato nella valuta cartacea dell'epoca. Questi uomini iniziarono la guerra per la rivoluzione e la combatterono. Per 10 anni e più avevano combattuto contro le truppe britanniche, assaltando e conquistando i forti del re. Hanno resistito e combattuto a Lexington, a Bunker Hill e la cima della collina dove in giugno si opposero a un'ondata dopo l'altra delle disciplinate giubbe rosse britanniche era imbiancata dalla neve del febbraio successivo, prima che avessero un capo. Era un operaio, invecchiato e fallito, nipote di un agricoltore, figlio di un fabbricante. A 13 anni andò a lavorare nel mestiere del padre. I suoi genitori erano quaccheri, avevano sopportato allegramente grandi privazioni per dargli il vantaggio, raro per un ragazzo della classe operaia inglese, di imparare a leggere e scrivere. Sposò la figlia di un tabaccaio e col tempo ereditarono il piccolo negozio di Lewis in Inghilterra. Guadagnava anche uno scellino e 9 penny e mezzo al giorno, facendo l'esattore delle tasse che venivano riscosse ogni 2 settimane in ogni città a mercato. Così lottò fino a quasi 40 anni. Poi il piccolo negozio fu venduto per debiti e lui perse il lavoro. Alcuni amici gli prestarono del denaro per venire in America. Benjamin Franklin lo incoraggiò molto gentilmente e gli consegnò una lettera a un tipografo di Filadelfia. Questo tipografo lo assunse al meraviglioso stipendio di $5 la settimana per fondare una piccola rivista, The Pennsylvanian. Una vita completamente nuova, ricca di opportunità, deve essersi aperta davanti a lui. Le colonie erano ormai seriamente bloccate e la popolazione non riusciva a procurarsi la polvere da sparo. Il nuovo editore pensò a un sistema per utilizzare il salnitro e The Pennsylvanian lo presentò con un successo sensazionale. Quell'estate un gran numero di persone adottò l'idea del salnitro e sentì il nome del suo inventore, Thomas Paine. Risparmiò i suoi soldi finché non ebbe abbastanza per pagare la stampa di un piccolo opuscolo, 40 pagine di onesto buonsenso. Scrisse la verità come la vedeva lui, disse agli americani confusi: combattete per l'indipendenza, staccatevi dall'Inghilterra, istituite un vostro governo e fate ciò che è giusto ai vostri occhi. Non c'è stata un'opportunità simile dai tempi di Adamo, abbiamo il potere di creare un nuovo mondo. Dall'invenzione della stampa nessuno aveva mai sognato una vendita del genere, da allora non c'è stato un successo simile. Su una popolazione di 2 milioni e mezzo di abitanti, più di 100.000 persone comprarono il pamphlet di Thomas Paine, Common Sense, senso comune, e tutti lo lessero. Thomas Paine cedette i diritti d'autore alle tipografie di ogni colonia. Non devo trarre alcun profitto dai miei scritti politici, disse. Sono per me una questione di principio. Non posso desiderare di trarre un beneficio e di farne l'oggetto per ottenerlo. Si arruolò come soldato semplice nell'esercito continentale e fu nella ritirata di Washington con le truppe sconfitte che ripiegavano davanti all'avanzata britannica da Long Island a Manhattan, al New Jersey, alla Pennsylvania. E quando il congresso stava scappando, i soldati disertavano e il terrore era in ogni casa, e gli uomini ragionevoli stavano affluendo, stavano andando dagli inglesi, Thomas Paine scrisse: questi sono i tempi che mettono alla prova le anime degli uomini. Il soldato estivo e il patriota solare in questa crisi si ritireranno dal servizio del proprio popolo. La tirannia, come l'inferno, non si conquista facilmente. Ciò che otteniamo a poco prezzo lo stimiamo con troppa leggerezza. Sarebbe davvero strano se un articolo così celestiale come la libertà non venisse valutato molto bene. L'intero paese si infiammò di coraggio per affrontare questa sfida. Secondo Washington, Thomas Paine valeva più dell'intero esercito. Il Congresso lo tolse dai ranghi e lo nominò segretario degli esteri. Era troppo onesto per quel lavoro, ma andò in Francia e ottenne il denaro che salvò la rivoluzione. Per il mondo intero, per 20 anni, Thomas Paine fu il leader della rivoluzione. Dal primo all'ultimo disse la verità come la conosceva. Il suo Rights of Man, diritti degli uomini, diritti dell'uomo, demolì completamente il beniamino britannico, quel famoso oratore truffatore Burke. Il boia bruciò il libro e i giudici del re condannarono Thomas Paine a multe e carcere. Il libro vendette più di 100.000 copie nelle isole britanniche. Thomas Paine fu la più grande influenza politica del suo secolo. Un anno e 3 mesi dopo che i contadini avevano combattuto a Lexington, più di un anno dopo Bunker Hill, 6 mesi dopo che il senso comune di Thomas Paine aveva riunito tutte le voci degli uomini comuni in un unico grido per l'indipendenza, un gruppo di gentiluomini si riunì a Filadelfia. Jefferson aveva chiesto a Thomas Paine una bozza di dichiarazione e Paine gliel'aveva inviata. Questi signori erano al sicuro se stavano dalla parte del re. Avevano tutto da perdere se non lo facevano. Bande di guerriglieri e folle sparse non potevano sconfiggere l'intera forza della Gran Bretagna. Una dichiarazione di indipendenza avrebbe gettato ogni colonia nel caos. Le truppe del re stavano avanzando solidamente lungo l'Hudson, la flotta del re si stava avvicinando a New York, ogni uomo presente a quella riunione a Filadelfia aveva una grande proprietà terriera, una sostanziale posizione commerciale o professionale da perdere. Bastava non fare nulla e avrebbe sicuramente conservato il suo denaro, il suo status di classe superiore e la sua vita. E poteva sempre dire a se stesso che, pur non essendo d'accordo con le politiche del governo, il dovere di un buon suddito è sempre quello di rispettare il proprio re, a mo' di scusa. La pena per la firma della dichiarazione era la morte. Gli uomini che l'hanno firmata hanno corso un grandissimo rischio, non solo per se stessi, ma anche per le loro famiglie e i loro familiari, le loro proprietà. Sarebbero state confiscate, le loro famiglie espropriate e disonorate, i loro figli e i loro nipoti sarebbero stati colpiti per sempre. Thomas Jefferson aveva scritto il fatto molto chiaramente: promettiamo le nostre vite, le nostre fortune e il nostro sacro onore. Questo è ciò che ogni uomo ha promesso al debole, alla parte perdente, quando ha firmato una dichiarazione di quella guerra decennale, della sua causa e del suo motivo, e cioè: riteniamo che queste verità siano evidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali e dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, tra i quali la vita, la libertà e la ricerca della felicità. 4. Democrazia. Una ragione convincente della lunga esitazione di questi uomini, Washington, Jefferson, Franklin, John Adams, Madison, Monroe, era la paura della democrazia. Erano uomini istruiti, tranne Franklin che era un autodidatta. Ognuno di loro aveva l'educazione di un gentiluomo inglese, cioè la filosofia e la storia dell'intero passato europeo gli erano state ficcate in testa prima dei 12 anni. Pertanto, quando fu abbastanza grande per pensare da solo, ciascuno di loro aveva migliaia di anni di esperienza umana con ogni forma di governo su cui riflettere. Questa conoscenza era allora considerata necessaria per ogni uomo la cui nascita lo autorizzava a prendere parte al governo del suo paese. Inoltre conoscevano tutti il significato di ogni parola che usavano, ne conoscevano la radice greca, latina o anglosassone. Fino a 40 anni fa questa conoscenza era ancora considerata di primaria importanza nelle scuole americane. Ogni alunno a 13 e 14 anni imparava l'etimologia, come aveva imparato l'ortografia fin dall'età di 6 anni, ripetendo con costanza i fatti fino a fissarli nella mente. Oggi la confusione del significato delle parole negli Stati Uniti è un pericolo per il mondo intero. Sono poche le scuole americane che richiedono a un allievo di analizzare le parole fino alle loro radici e di sapere che cosa intende quando parla. E per 20 anni i membri disciplinati del Partito Comunista in questi stati hanno deliberatamente seguito l'istruzione di Lenin, prima confondere il vocabolario. Il pensiero può essere fatto solo con le parole. Un pensiero accurato richiede parole dal significato preciso. La comunicazione tra esseri umani è impossibile senza parole il cui significato preciso sia generalmente compreso. Se si confonde il vocabolario, la gente non sa cosa stia succedendo, non riesce a comunicare un allarme, non riesce a raggiungere uno scopo comune. Se si confonde il vocabolario, milioni di persone sono impotenti di fronte a un piccolo numero disciplinato che sa che cosa intende quando parla. Lenin aveva cervello. Oggi, quando si sente la parola democrazia, chissà che cosa significa. Gli Stati Uniti, naturalmente, l'Inghilterra, il Commonwealth britannico, l'impero britannico, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, il Belgio, parte della Francia, la Finlandia, quando i russi attaccano i finlandesi, ma non quando i finlandesi attaccano i russi. La Russia, quando i russi combattono i tedeschi, ma non quando Stalin firma un patto con Hitler. I regni e le dittature dei Balcani, la sicurezza economica e l'assicurazione obbligatoria e il sistema di riscossione delle quote sindacali, la cordialità e il vicinato e il senso unico americano dell'uguaglianza umana e il voto per tutti, il socialismo e il comunismo e la causa spagnola per la quale hanno combattuto i repubblicani, i democratici, i socialisti, i sindacalisti, anarchici e comunisti russi e americani, la libertà e i diritti umani e la dignità umana e la comune decenza, cioè la parola non ha un significato, il suo significato è stato distrutto e oggi c'è solo confusione. Un tempo era una parola sana, una parola necessaria perché nessun'altra ha il suo vero significato. Democrazia significa governo del popolo, così come monarchia significa governo di una sola persona. Il demos, il popolo, era una fantasia immaginata dagli antichi greci alla ricerca dell'autorità che immaginavano controllasse gli uomini. A questa fantasia essi attribuivano il significato di un dio che è sempre legato a ogni forma di autorità e ci sono ancora persone che credono che la voce del popolo sia la voce di Dio. Il popolo non esiste. Sono le singole persone a comporre il grande gruppo che chiamiamo popolo. In pratica, ogni tentativo di instaurare una democrazia è un tentativo di far sì che la maggioranza delle persone di un gruppo agisca come governante di quel gruppo. Considerate questo aspetto per un momento non come fosse una mia fantasia, ma come fosse qualcosa di reale applicato alla vostra esperienza personale in gruppi di persone viventi che conoscete e capirete perché ogni tentativo di instaurare la democrazia è fallito. Naturalmente non c'è motivo di supporre che il governo a maggioranza sia desiderabile, anche se fosse possibile. Non c'è moralità o efficienza nei meri numeri. 99 persone non hanno più probabilità di avere ragione di una persona sola. Nei Federalist Papers, Madison affermava il motivo per cui ogni tentativo di instaurare una democrazia crea rapidamente un tiranno. Una democrazia pura non può ammettere alcuna cura per i mali della fazione. Una passione o un interesse comune saranno sentiti da una maggioranza e non c'è nulla che possa controllare gli incentivi a sacrificare la parte più debole. Per questo motivo le democrazie sono sempre state incompatibili con la sicurezza personale o con i diritti di proprietà e in generale sono state tanto brevi nella loro vita quanto violente nella loro morte. I gentiluomini che si assunsero la responsabilità di salvare la rivoluzione americana temevano che la democrazia l'avrebbe fatta finita. Gli americani sconosciuti, le volpi di Ebenezer, per anni avevano combattuto contro l'autorità, ognuno era determinato a fare ciò che era giusto ai miei occhi. Ma non avevano il latino o il greco, non sapevano nulla di tutti i precedenti sforzi per far funzionare la democrazia e gridavano per la democrazia. Dall'altra parte, i grandi proprietari terrieri, i banchieri, i ricchi mercanti e una folta schiera di rapaci, arraffoni e speculatori terrieri, guidati da Alexander Hamilton, l'avventuriero illegittimo delle Indie occidentali, che era anche un genio, chiedevano una monarchia americana. I veri rivoluzionari, quando firmarono la dichiarazione di indipendenza e di libertà individuale, si impegnarono non solo a vincere una guerra contro probabilità impossibili, ma a creare un tipo di governo completamente nuovo. Si trovavano di fronte alla potenza armata dell'impero britannico, con 13 colonie disorganizzate e litigiose alle spalle e due pericoli che li minacciavano, la monarchia e la democrazia. Non hanno detto nulla sul popolo, non hanno ripetuto sciocchezze sulla scienza, sulla legge naturale e sull'età della ragione, non hanno parlato della nobile natura dell'uomo naturale, conoscevano gli uomini, erano realistici, non si facevano illusioni sugli uomini, sugli esseri umani, ma sapevano che tutti loro sono liberi. Si opponevano sia alla monarchia che alla democrazia perché sapevano che quando gli uomini istituiscono un'autorità immaginaria armata di forza, distruggono ogni possibilità di esercitare la loro propria libertà naturale. Uomini istruiti avevano studiato i numerosi tentativi di instaurare una qualsivoglia democrazia. I risultati erano noti già 25 anni fa in Grecia. La democrazia non funziona, non può funzionare perché ogni uomo è libero. Non può trasferire la sua vita e la sua libertà inalienabili a qualcuno o a qualcosa al di fuori di sé. Quando cerca di farlo, cerca di obbedire a un'autorità che non esiste. Non fa differenza cosa si immagina che sia questa autorità, re o Baal, Zeus o Giove, o Cleopatra o Mikado, la necessità economica, la volontà delle masse o la voce del popolo. Il fatto è che non esiste alcuna autorità di nessun tipo che possa controllare gli individui. Sono loro a controllare se stessi. Chiunque in un gruppo libero può decidere di rinunciare alla propria idea e di assecondare la maggioranza. Se non lo vuole fare, può uscire dal gruppo. Questo è un uso della libertà, un esercizio della responsabilità di autocontrollo. Ma quando un grande numero di individui crede falsamente che la maggioranza sia un'autorità che ha il diritto di controllare gli individui, deve lasciare che la maggioranza scelga un uomo o pochi uomini che agiscano come governo. Crederanno che la maggioranza abbia trasferito a quegli uomini il diritto di controllare tutti gli individui che vivono sotto quel governo, ma il governo non è un'autorità di controllo. Il governo è un uso della forza e la polizia, l'esercito, non può controllare nessuno, può solo ostacolare, limitare o fermare l'uso della propria energia. Come dice Madison, qualche passione o interesse comune influenzerà la maggioranza e poiché la maggioranza sostiene il governante che essa stessa ha scelto, nulla controlla il suo uso della forza contro la minoranza. Così il governante di una democrazia diventa rapidamente un tiranno e questa è la morte rapida e violenta della democrazia. Questo accade sempre, invariabilmente, è certo come la morte e le tasse. È successo ad Atene 25 secoli fa, è successo in Francia nel 1804, quando una maggioranza schiacciante ha eletto imperatore Napoleone. È successo in Germania nel 1932, quando la maggioranza dei tedeschi, spinti dalla comune passione per il cibo e l'ordine sociale, ha eletto Hitler. Madison ha affermato il fatto storico. In democrazia non c'è nulla che controlli gli incentivi a sacrificare la parte più debole, non c'è protezione per la libertà. È per questo che le democrazie distruggono sempre la sicurezza personale, la Gestapo, i campi di concentramento e i diritti di proprietà. Quali diritti di proprietà esistono oggi in Europa? E sono tanto brevi nella loro vita quanto violente nella loro morte. 5. I diritti di proprietà. Quando Madison scrisse i diritti di proprietà, tutti sapevano cosa intendeva. Il diritto di proprietà era l'essenza della rivoluzione, era un diritto per il quale gli americani stavano combattendo. L'idea fantastica che i diritti di proprietà possano essere opposti ai diritti umani non era mai entrata nella testa di nessuno. Oggi quest'idea fa parte della confusione del vocabolario e del pensiero americano. Ovviamente la proprietà non può avere alcun diritto, la proprietà è un diritto umano legale. Un'isola non scoperta non è una proprietà, è terra, legname, metalli, ma non è una proprietà. Diventa proprietà solo quando qualcuno la possiede, ovvero quando qualcuno ne ha la proprietà legale. Quando Eric il Rosso sbarcò su questo continente, nemmeno un acro era di proprietà. Gli indiani d'America erano comunisti, non possedevano alcuna proprietà. Quando gli spagnoli esplorarono questo continente, ogni acro di esso e tutte le sue risorse erano di proprietà della corona spagnola, per diritto legale conferito dal Papa. In seguito, per diritto di conquista e per trasferimento legale, i re di Francia, Spagna e Inghilterra possedettero questo continente. Nel 1776 Giorgio III possedeva ogni albero che cresceva nelle proprietà britanniche. La bandiera dell'albero di pino significava che gli americani rivendicavano il diritto di possedere una proprietà privata. Questo diritto non è mai esistito. Nel comunismo nessun individuo possiede proprietà. Nessuno possedeva proprietà sotto gli antichi monarchi assoluti. Nessuno possedeva proprietà nella democrazia ateniese, dove la proprietà e la vita di ognuno erano alla mercé del capriccio della maggioranza. La Chiesa ha mantenuto la teoria della proprietà privata come dottrina della Chiesa, così come ha mantenuto l'uguaglianza delle anime, perché il diritto di possedere una proprietà è essenziale per la libertà individuale. E la Chiesa ha riconosciuto la libertà, la responsabilità di autocontrollo delle anime in teoria astratta. Ma nel sistema feudale, nessuno possedeva una vera e propria proprietà. I servi della gleba erano legati alla terra, ma non la possedevano. I contadini possedevano la terra come comunisti, i baroni possedevano castelli, terre e villaggi in feudo dal re, che poteva sottrarre loro la proprietà se venivano meno ai loro doveri feudali. Le proprietà del re erano controllate dai baroni che le utilizzavano. La Chiesa deteneva le proprietà a livello familiare. Gli uomini di Chiesa usavano le proprietà della Chiesa, ma nessun uomo di Chiesa era proprietario delle proprietà. I re di diritto divino possedevano tutte le proprietà nei loro regni. In realtà non potevano togliere la proprietà a nessun nobile che comandasse abbastanza uomini da combattere per essa, ma in teoria i re possedevano la proprietà. Controllavano la proprietà delle classi inferiori, come Luigi XIV controllava l'uso dei telai, tra virgolette, da parte dei tessitori. Il re poteva appropriarsi delle proprietà di chiunque se ne aveva la forza e poteva sempre vietare a chiunque il possesso di qualsiasi tipo di proprietà. Per esempio, nel 1776 nessun francese che non fosse un nobile poteva possedere un piccione. Gli americani si battevano per il diritto di proprietà. La proprietà individuale dei beni era un obiettivo audace della rivoluzione. I conservatori americani si opposero vigorosamente. Jefferson li combatté per anni per far conoscere legalmente la proprietà individuale della terra in Virginia. La rivoluzione per il diritto individuale alla proprietà è appena iniziata su questa terra. Questo diritto non esiste in Asia o in Africa, né nell'Europa continentale in questo momento. Il diritto di proprietà non è un diritto naturale inalienabile, come la vita e la libertà, è un diritto legale, assolutamente essenziale per l'esercizio dei diritti naturali dell'individuo. Nulla può togliere a qualsiasi persona vivente i suoi diritti naturali, ma senza una protezione legale di tali diritti, nessuno può esercitarli. Oggi gli europei non hanno alcuna protezione legale contro il sequestro, la tortura o l'esecuzione. Inerme nelle mani dei torturatori, un uomo controlla ancora i suoi pensieri e la sua parola, ma non può agire o parlare liberamente. I diritti legali, quando esistono, proteggono l'esercizio dei diritti naturali da parte dell'individuo. La rivoluzione ha protetto l'esercizio della libertà naturale di ogni americano con il metodo rivoluzionario nuovo nella storia di proibire al governo americano di sequestrare o perquisire la persona di un americano senza regolare processo, di imprigionarlo senza processo, di processarlo in segreto o senza permettergli di chiamare testimoni a sua difesa, di processarlo due volte per la stessa accusa, di punirlo per un crimine commesso da altri, di rifiutargli un processo con giuria o di negargli il diritto di appello, di torturarlo, di negargli il diritto di riunione, il diritto di presentare petizioni al governo, il diritto di portare armi o il diritto di possedere proprietà. Ognuno di questi diritti legali è necessario per proteggere l'uso della libertà naturale di ogni individuo. Chiunque ne dubiti, guardi alla Germania. Il diritto di proprietà è il più recente di questi diritti. I rivoluzionari americani sono stati i primi a capire il semplice fatto che nessun uomo può usare la sua libertà naturale se non ha il diritto di stare su questa terra. Nessuno può agire liberamente se, per il solo fatto di vivere, è un trasgressore della proprietà che il governo, il re, il signorotto, il comune possiede. Questo è il motivo per cui i controrivoluzionari che attaccano il diritto inalienabile dell'uomo alla libertà, per prima cosa attaccano il suo diritto legale alla proprietà. La proprietà privata è il primo diritto individuale che Lenin, Stalin, Mussolini e Hitler aboliscono. Oggi il mondo è pieno di innumerevoli nuovi tipi di proprietà. In un secolo questa rivoluzione ha liberato una tale energia umana da creare un mondo completamente nuovo. Gli americani che utilizzano i diritti umani protetti dalla legge costituzionale, gli inglesi protetti dalla loro difesa dei diritti umani feudali e alcuni europei che hanno un po' di libertà di azione, in 50 anni hanno creato forme impreviste e totalmente nuove di proprietà di tutti i tipi di beni che non erano mai esistite prima. Nessuno le comprende ancora, non c'è stato il tempo, non ci sono precedenti storici e nemmeno paralleli storici. Nulla di simile è mai stato conosciuto prima. Questo è un mondo completamente nuovo. L'energia umana sta creando così tanti nuovi metodi per produrre enormi quantità di beni e per attaccare la povertà e la malattia, lo spazio e il tempo, che nessuno sa cosa stia succedendo. E dunque è facile confondere il pensiero sulla proprietà. È possibile attaccare la rivoluzione nel suo punto più nuovo e quindi più debole. Il diritto individuale di proprietà. Perciò abbiamo questa assurda idea che i diritti di proprietà siano nemici dei diritti umani. Questo nuovo mondo non ha ancora 50 anni. Stranamente non è perfetto. Gli uomini ingiusti, che ci crediate o no, agiscono ancora in modo ingiusto. Gli uomini stupidi agiscono ancora in modo stupido. E Diogene stesso, con la saggezza di Socrate, non può sapere in anticipo come funzioneranno tutte queste forme inedite di proprietà individuale, di tipi di proprietà totalmente nuovi. Non ci si può aspettare che tutte funzionino perfettamente. Anche il diritto a un processo con giuria non funziona perfettamente. Ho conosciuto giurie che hanno condannato uomini innocenti e assolto quelli colpevoli. Ho conosciuto un uomo che è stato condannato all'ergastolo per aver accettato come tangente dalle mani di un altro uomo una certa scatola contenente 100.000 franchi in banconote. L'uomo che, secondo questo verdetto, gli aveva consegnato la scatola fu processato per corruzione e sulla base delle stesse prove la giuria decise che non aveva consegnato la scatola all'altro uomo e lo assolse. 15 anni dopo, il prigioniero, morente di tubercolosi, chiese la libertà condizionata e si presentò davanti al parole board. Il presidente della commissione era l'uomo che era stato assolto dall'accusa di averlo corrotto. Tutti i politici, tutti i giornalisti, quasi tutti gli americani conoscono molti di questi casi. Allora, perché non sentiamo voci appassionate che dichiarano che i diritti della giuria non devono interferire con i diritti umani? Vi spiego perché. Un simile attacco al diritto legale di ogni americano al processo con giuria suonerebbe come un'assurdità. Lo stesso attacco insensato al diritto di ogni americano di possedere anche solo una casa suona come un attacco ai ricchi. Se questo attacco può confondere le menti americane, può distruggere una salvaguardia essenziale della sicurezza personale di ogni americano e del suo esercizio dei diritti umani. E che nessuno pensi che sia la tenera compassione per i poveri a ispirare questo attacco. Questi uomini e donne che piangono per gli americani che possiedono molto meno dei ricchi e molto più di quanti i poveri abbiano mai posseduto nella storia, stanno proponendo di togliere a loro e ai loro figli il diritto di possedere qualsiasi proprietà. Quando Madison scrisse che le democrazie sono sempre state incompatibili con la sicurezza personale e i diritti di proprietà, tutti gli americani sapevano che stava dicendo che il governo della maggioranza è sempre stato nemico dei diritti umani e che stava affermando il motivo per cui questa repubblica non è una democrazia. Come scuola delle donne e come devana, ora desidero prendere le distanze da quest'ultima parte sulla proprietà privata che ha scritto Rose Wilder. Noi sappiamo che le antiche civiltà matrifugali neolitiche a cui ci ispiriamo si regolavano sull'utilizzo in comune dei beni e non sul loro possesso. Non vogliamo con questo schierarci politicamente, ma ricordare che noi ci sentiamo in risonanza con comunità di tipo spirituale, in cui ogni bene è in comune, viene utilizzato quando serve e con rispetto da chi vive nella comunità e poi restituito alla comunità stessa, come delinea la stessa Rosa Luxemburg. Parlando delle comunità native in tutto il mondo, comunità che furono distrutte dai capitalisti europei. E come ho delineato io stessa nel mio trattato Economia, un futuro possibile senza denaro, ascoltabile, su questo canale YouTube. È chiaro che la proprietà che Rose Wilder intende è quella della propria casa o terra da coltivare e non certo quella associata alla speculazione e all'accumulazione del capitale di cui parla Rosa Luxemburg.